Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Mi è capitato durante l'estate di far parte di una giuria di un concorso musicale, un'esperienza che fino a poco tempo fa, lo confesso, non avrei mai immaginato di vivere. Pensavo che avrei dovuto dare dei voti così un po' a casaccio, in base a quanto una canzone mi prendeva, mi piaceva, come dicono alcuni, mi diceva, insomma. In realtà mi è stata consegnata dall'organizzazione una griglia fittissima di valutazioni da dare. Avrei dovuto giudicare i brani in base all'originalità, alla creatività, alla commerciabilità, alla performance. Devo dire che quella griglia mi ha aiutato. Certo, ho dovuto ragionare di più, ho dovuto pensare di più, ma ho sicuramente dato un giudizio migliore rispetto a quello che avrei dato senza griglia, senza strumenti, dando insomma un voto a casaccio. Vogliamo fare adesso la stessa cosa con la dottrina sociale della Chiesa. Diamoci degli strumenti per ragionare meglio. Una bella griglia. Sarà uno sforzo intellettuale, lo so, ma questo ci renderà più agevole parlare di politica, di economia, di società e di pace nelle prossime settimane. Vorremmo giudicare, insomma, con gli strumenti che la Chiesa ci propone, se una realtà è a servizio dell'uomo o se è contro di esso. La Caritas in Veritate di Benedetto XVI definisce la dottrina sociale della Chiesa come annuncio della verità dell'amore di Cristo nella società. Ma su che basi? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. I principi permanenti della dottrina sociale della Chiesa costituiscono i veri e propri cardini dell'insegnamento sociale cattolico. Tali principi, espressione dell'intera verità sull'uomo, conosciuta tramite la ragione e la fede, scaturiscono dall'incontro del messaggio evangelico e delle sue esigenze, che si riassumono nel comandamento supremo dell'amore di Dio e del prossimo e nella giustizia, con i problemi derivanti dalla vita della società. Questi principi hanno un carattere generale e fondamentale, poiché riguardano la realtà sociale nel suo complesso, dalle relazioni interpersonali caratterizzate da prossimità ed immediatezza, a quelle mediate dalla politica, dall'economia e dal diritto, dalle relazioni tra comunità o gruppi ai rapporti tra i popoli e le nazioni. Per la loro permanenza nel tempo ed universalità di significato, la Chiesa li indica come il primo e fondamentale parametro di riferimento per l'interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali, necessario perché vi si possono attingere i criteri di discernimento e di guida dell'agire sociale in ogni ambito. È con noi anche per questa puntata Don Marco Cagol, responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per esserci ancora. Grazie a voi e ben ritrovati. E prima abbiamo detto, citando Papa Benedetto XVI, che la dottrina sociale della Chiesa è l'annuncio della verità dell'amore di Cristo nella società. Su che cosa però si basa concretamente? Ne riassumiamo i principi proprio per comporre questa griglia? Certamente, e si fa anche molto presto, perché il compendio della dottrina sociale della Chiesa proprio li elenca in un capitolo apposito e li descrive brevemente. Beh, il primo principio, che costituisce un capitolo a parte, che è precedente quello sui principi, è quello proprio della centralità della persona umana e dei suoi diritti. Li abbiamo un po' sviscerati nella puntata precedente, però questo è il principio cardine, la centralità della persona umana, tutto converge lì. Poi la dottrina sociale della Chiesa ne elenca alcuni altri, che sono proprio l'articolazione di questo discorso sulla società che deriva dalla visione di persona e che sono proprio l'articolazione anche razionale di questo annuncio dell'amore di Cristo sulla società. Li possiamo proprio elencare: il bene comune, principio del bene comune, il principio della destinazione universale dei beni, il principio di sussidiarietà, il principio di partecipazione e il principio di solidarietà. Questo è proprio l'elenco, così. Ecco, bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, partecipazione e solidarietà. Partiamo dal primo, che dà anche il titolo alla nostra trasmissione. In quest'anno abbiamo parlato tantissimo di bene comune. Ne abbiamo parlato, però riassumiamone un attimo il significato anche velocemente. Sì, beh, il bene comune, in una frase molto lapidaria che fu di Paolo VI, lo possiamo definire come il bene di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. È un concetto, diciamo così, molto semplice, ma anche molto complesso. Potremmo anche definirlo in quest'altro modo, così come lo definisce anche altri documenti della dottrina sociale della Chiesa, e cioè quell'insieme delle condizioni della vita sociale che permettono alle persone e alle comunità dove si svolge, ecco, la loro vita, di raggiungere più velocemente e più pienamente la propria perfezione. Ecco, sono due definizioni complementari. Quello che è importante comprendere è che il bene comune non va inteso semplicemente come la somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. È di tutti e di ciascuno, e in un certo senso si può dire che è indivisibile. Cioè, o lo perseguiamo tutti insieme, oppure, ecco, si rischia veramente di non raggiungerlo. O è valido per tutti contemporaneamente, oppure si rischia che non si possa parlare di bene comune. Un esempio molto plastico per dire cosa è o cosa non è il bene comune è l'esempio del PIL. Il PIL non è propriamente un concetto di bene comune, diciamo che è un indicatore del benessere di una collettività, ma non può essere usato come immagine del bene comune, perché il PIL fondamentalmente è una sommatoria. Ma il PIL può crescere in un paese anche se la fascia più debole della popolazione rimane sempre più povera. I famosi due polli. Esattamente, esattamente. Se i ricchi sono molto ricchi e sono sempre più ricchi, ma ci sono dei poveri che magari marginalmente restano sempre più poveri, il PIL potrebbe anche paradossalmente crescere, ma allora non si può dire che cresce il bene comune. Il bene comune è più paragonabile a una moltiplicazione. Se noi mettiamo uno zero in una qualsiasi moltiplicazione, anche con numeri grandissimi, alla fine il risultato sarà sempre zero. E siccome i fattori di questa moltiplicazione nell'idea di bene comune sono le persone, non è mai concepibile che qualcun fattore vada a zero. Grazie Don Marco, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Vamos a bailar, vamos que el tiempo no nos... se stera, balla con me, suda con me, muovi i tuoi sensi, stringiti a me, balla che ballo con te, solo e soltanto con te, ama. Sono un prato e tu sei la regina dell'ultimo tango. Stringimi, amami, soli e più spinti che mai. Io sono il sole, tu ombra, non puoi più scappare, lo sai, lo sai, lo sai. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo con Don Marco Cagolo e stiamo ripercorrendo i principi su cui si basa anche la dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo parlato di bene comune, il secondo punto è la destinazione universale dei beni. Destinazione universale dei beni. Scusi la provocazione, ma non c'è un tocco di socialismo o vuol dire tutt'altro? No, non c'è un tocco di socialismo. Il principio della destinazione universale dei beni è uno dei principi più importanti di tutta la visione sociale cristiana e si radica in questa idea fondamentale. La creazione è stata consegnata da Dio a tutta l'umanità, quindi tutti gli uomini hanno il diritto di poter accedere ai beni che sono necessari alla propria sopravvivenza, alla soddisfazione dei propri bisogni, allo sviluppo della propria personalità, sia materiale che spirituale, evidentemente. Il principio della destinazione universale dei beni è un principio che comprende al suo interno il diritto alla proprietà privata, quindi non è una forma velata o criptica di socialismo, nel senso che la proprietà privata è riconosciuta dal pensiero sociale cristiano come un fattore di libertà, di autonomia anche della persona, dove la persona può esprimere, può raccogliere il frutto del proprio lavoro e può in qualche modo esprimere la propria libertà. Però il diritto alla proprietà privata non è un diritto assoluto, nel senso che non è legittimo per nessuno mantenere una proprietà privata quando ci sono altri esseri umani che non hanno neanche la possibilità di soddisfare ai propri bisogni. Il diritto alla proprietà privata deve recedere quando qualcuno in qualche modo manca del necessario per vivere o quando i beni che sono posseduti in qualche modo sono lasciati infruttuosi, non sono fatti sviluppare nella propria dimensione di socialità. Potremmo dire così, in realtà questo principio ci dice che tutti avrebbero il diritto di poter accedere a quella porzione di proprietà privata che consente loro di soddisfare i propri bisogni ed esprimere la propria personalità. È un principio molto molto significativo che ha delle applicazioni anche molto concrete. Pensiamo per esempio a tutta la questione dei latifondi, no? Terre lasciate incolte, ma quando magari ci sono migliaia e migliaia di contadini che non hanno neanche un pezzettino di terra dove poter coltivare e per raccogliere il necessario per vivere. E aggiungerei anche la tematica dell'imposizione fiscale, per cui... Esattamente, la fiscalità si in qualche modo corrisponde a questo principio, non solo a questo, ma è, come dire, ciascuno ha diritto al dovere di contribuire affinché altri possano soddisfare i propri bisogni. L'anno scorso abbiamo discusso di sussidiarietà, il terzo punto, il terzo principio, partendo dalla crisi degli enti locali. In effetti, sussidiarietà è un termine che sentiamo spesso, ma pochi ne sanno il significato esatto. Ci puoi illuminare? Certamente, questo è un terzo grande principio, ecco, classico proprio della dottrina sociale della Chiesa, generato proprio all'interno della visione del pensiero sociale cristiano, che poi è diventato anche patrimonio, per esempio, dell'Unione Europea e di altre realtà, anche del nostro paese, pensiamo al titolo quinto della Costituzione italiana. E forse vale la pena di ricordare, per capirlo bene, che il principio di sussidiarietà deriva dalla parola latina subsidium, cioè... le società, diciamo così, di livello superiore hanno il dovere di sussidiare, di intervenire, di aiutare lo sviluppo della singola persona e delle società, diciamo così, originali, come per esempio la famiglia. Ma non devono fare ciò che la persona e queste società, tra virgolette, di livello inferiore possono compiere autonomamente. Quindi intervengono in sussidio, in aiuto, ecco. E possiamo parlare di sussidiarietà verticale, e allora proprio è questo che si sviluppa dalla singola persona all'ente locale, all'ente regionale, all'ente nazionale, eccetera, o di sussidiarietà orizzontale, che riguarda il rapporto tra gli enti pubblici, diciamo così, e quelli che sono invece le realtà di società civile, tra cui appunto la persona, la famiglia e le realtà. Anche qui il rapporto deve essere quello di sussidiarietà, cioè deve essere lasciata lo spazio alle singole realtà di poter esprimere anche tutte le proprie potenzialità. Quarto tassello, la partecipazione, che è declinabile a vari livelli, sociale, politico, economico. Sì, la partecipazione è l'esplicitazione dell'idea che tutte le persone sono uguali e che tutte le persone hanno il diritto e il dovere di contribuire al bene comune, ecco, di una comunità e di una società. Ecco, partecipazione significa appunto che ciascuna persona ha il diritto e il dovere di partecipare, cioè di prendere parte a tutte quelle attività che compongono la vita di una società. Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di contribuire alla vita culturale, alla vita economica, sociale, politica della comunità civile cui appartiene. Quindi può essere un principio attraverso cui valutare a come sono strutturate le varie realtà, le varie realtà economiche, sociali, politiche, e anche un principio che però stimola le persone, perché anche è anche quasi un dovere, ecco, che le singole persone hanno di partecipare. Oggi potrebbe essere interessante applicare questo principio soprattutto alla vita degli enti pubblici, cioè della politica, quanta è reale la partecipazione, ma anche alle realtà economiche, quanto il principio di partecipazione oggi in economia in qualche modo è realizzato. Abbiamo parlato di bene comune, destinazione universale di beni, sussidiarietà, partecipazione, un ultimo flash per l'ultimo principio, che è la solidarietà. Sì, la solidarietà, ecco, è un principio che è assolutamente necessario tenere presente, soprattutto quando si parla di sussidiarietà, perché sennò la sussidiarietà può anche impazzire, ecco. A volte noi vediamo che il principio di sussidiarietà viene anche usato da certe realtà per magari accampare dei propri interessi all'interno della collettività. Il principio di solidarietà è un'infrastruttura che deriva proprio dalla natura delle relazioni tra le persone, che, come abbiamo visto anche nella scorsa puntata, quindi è un principio per valutare quanto all'interno di ogni singola realtà sociale i legami, ecco, tra le persone, tra le varie realtà, tra i vari soggetti sono improntati appunto a un legame positivo, un legame di presa in carico, e dall'altro lato è anche una virtù. E questo è l'interessante della solidarietà: la solidarietà è anche una virtù, cioè è necessario che ogni membro della comunità sia solidale nei confronti degli altri. Grazie Don Marco Cagol, abbiamo completato la nostra griglia con la quale potremo giudicare se una realtà è a servizio dell'uomo o se è contro di esso.